Con Elvira Frosini, Daniele Timpano per parlare del loro nuovo spettacolo Gli Sposi, Romanian Tragedy, a Roma, al Teatro India, dal 9 al 12 novembre. Intanto ben trovati. Ciao, ben trovato a te. Ciao. Cominciamo con Elvira, poi vi alternerete nelle risposte. Ci presenti questo spettacolo, Elvira? Allora, Gli Sposi, Romanian Tragedy, parla di Nicolae Ceausescu ed Elena Petrescu, la coppia che ha governato la Romania per più di 20 anni, insomma, ed è finita tragicamente nel 1989, l'anno esattamente dopo la caduta del muro di Berlino, con insomma, un colpo di Stato e con un'esecuzione quasi in diretta televisiva, insomma, ecco, quindi una tragica fine. E noi abbiamo incontrato questo testo che non è nostro, appunto, è un'eccezione nei nostri lavori, perché di solito scriviamo i nostri spettacoli, ma ogni tanto ci incuriosiamo anche di altra drammaturgia contemporanea, ci teniamo a dirlo, cioè di drammaturghi viventi. E quindi abbiamo conosciuto David Lescaut, che è un autore, attore, regista come noi, francese, perché lui ha messo in scena Aldo Morto in francese l'anno scorso. Ci era piaciuto molto il suo lavoro e quindi abbiamo letto una sua cosa, che erano due personaggi, ci ha incuriosito anche come era scritto, ci sembrava nelle nostre corde, quindi abbiamo deciso di farlo. E beh, abbiamo anche lavorato un pochino insieme a lui, ci ha sostenuto il progetto Fabula Mundi per Playwriting Europe, che ha curato anche la traduzione, che è gestito da Cartellini, e tramite una residenza insieme a David Lescaut abbiamo lavorato un po' sul testo, anche ad alcuni tagli, e poi insomma abbiamo fatto il lavoro di regia, di scrittura scenica, abbiamo introdotto delle musiche, insomma abbiamo fatto un lavoro che a noi piace, ecco. Quindi il lavoro è questo, il testo è molto molto grottesco, è tutto insomma, questi due che stanno in scena sono due attori, all'inizio c'è anche una certa distanza da quei due personaggi lì, pian piano ci entrano dentro e ci sprofondano dentro più che altro, in queste due che sono questa coppia un po' diabolica e anche un po' mediocre, diciamo così, è descritta da Lescaut, e che sono molto grotteschi, molto buffi, molto sopra le righe, e poi chiaramente c'è un finale che rovescia un po' tutto. E noi abbiamo lavorato anche un po' a cercare di aprire degli spazi in mezzo al testo in cui ci si potesse fare noi, ma anche il pubblico, qualche domanda, insomma, ecco, su queste due figure e su come vengono dipinte, riportate, narrate nell'Occidente, cioè dove siamo noi, dopo l'89, cioè dopo la caduta del muro. È questo, insomma, un po' il lavoro che abbiamo fatto. Interessante l'elemento dello scambio artistico con Lescaut. Volevo chiederti, al di là dell'elemento buffo e grottesco, e cosa vi ha convinto maggiormente del testo? Ci interessava, ci ha convinto il fatto che appunto c'era, soprattutto nella parte iniziale, c'era un grande spazio tra gli attori e i personaggi. Insomma, noi nei nostri spettacoli e nella nostra drammaturgia non lavoriamo mai sul personaggio in sé, ma su delle figure che vengono attraversate dall'attore, ma c'è sempre comunque un relazionarsi alla rappresentazione di qualsiasi figura o personaggio, e quindi farsi delle domande intorno a questo. Quindi in questa distanza tra gli attori e i personaggi noi lavoriamo sempre, e qui c'era questo spazio, anche se poi viene ristretto tanto verso il centro dello spettacolo e poi si riapre tutto. Insomma, ci interessava questo, poi anche il ritmo è scritto con un grande. Lui lavora molto ritmicamente quando scrive, è anche musicista, David Lescaut, e quindi c'è anche tutto una scrittura molto ritmica, basata molto sui ritmi delle cose che avvengono, no? Sì. Delle parole e delle azioni anche. Quindi, insomma, ci siamo trovati in questo in qualche modo. Ti passo Daniele ora? Va benissimo, va Sì, benissimo. se vuoi, sì. Allora, ecco qua Daniele Timpano. Buone, eccoci. Eccolo, Daniele Timpano. Pronto, signor Raponi? Vabbè. Daniele, dal punto di vista storico, un momento cruciale, insieme alla caduta del muro, la caduta di Ceausescu ha rappresentato un momento importante nella storia non solo della Romania, ma anche dell'Europa. Beh sì, a un mese circa di distanza dal crollo del muro crolla questo, chiamiamolo, regime. Cioè, è un momento fondamentale. Ceausescu e Siniora, insomma, sono gli unici, diciamo, capi di Stato dell'Europa dell'Est a finire così tanto male, così tanto, ecco, ad amnatio memoriae così totale. Insomma, a noi sicuramente una cosa che ci ha colpito e incuriosito, e rispetto alla quale, come accennava Elvira, abbiamo cercato anche di lavorare, diciamo, sia insieme che contro il testo, cioè nel senso allargando delle maglie dove era possibile. Cioè, voglio dire, questa damnatio memoriae, voglio dire, della dittatura comunista romena, messa come capro espiatorio, momento, diciamo, apicale ed esemplare del fallimento totale della malafede del socialismo reale, che è un po' come è raccontata dall'Occidente capitalista trionfante dall'89 a oggi. Cioè, in qualche modo, con tutte le critiche che pur rimangono a Ceausescu e al regime comunista romeno, comunque, cioè, non ci convinceva completamente. Cioè, ci sembrava un po' troppo dentro la critica che veniva da un mondo vincitore, che è un mondo che fa schifo, per quello dove siamo adesso. Dal mio punto di vista, insomma, ancora, come dire, in qualche modo residualmente di sinistra. E quindi ci pareva che questa damnatio memoriae rischiasse di coinvolgere tutto, diciamo, il socialismo reale, il comunismo anche come idea, rischiasse di coinvolgere tutto, no? E quindi abbiamo cercato di lavorare appunto tra le maglie del testo per insinuare i dubbi su questa cosa. Cioè, per esempio, va bene, la Romania rossa era un paese pieno di problemi, ma va bene, ma dall'89 adesso è tanto più carina, è tanto messo meglio come paese. Cioè, che è successo poi? Come dire, l'unico orizzonte possibile, che è quello dove viviamo adesso, era veramente così bello? Una serie di Sì, domande di questo tipo, ecco, ho sì, cercato di sì. farci, di mettere, diciamo, nel testo in qualche modo. Daniele, a Roma comincia il suo viaggio, questo spettacolo poi si muoverà? Beh sì, abbiamo una serie di date nel Lazio, intanto tra novembre e dicembre, a Frascati, poi vicino Viterbo, Vignanello, mi pare a Tivoli, ma da altre parti, insomma, nel Lazio. E poi sì, nel 2019 abbiamo, sì, un po' di date in giro, sì, ospiti di Scarti, che sono anche tra i produttori dello spettacolo, insieme a Fabula Mundi e Armonia, insomma. Ma sì, abbiamo una tournée che in qualche modo stiamo costruendo, ma in parte già è costruita, insomma, che accompagnerà parallelamente alla ripresa di Acqua di Colonia e ad altre, di, quella di altri lavori di repertorio. Bene. E allora in chiusura ci lasci anche i vostri riferimenti web per seguire gli spostamenti dello spettacolo? Sì, allora, bene, la tournée è sempre, il calendario è sempre aggiornato sul nostro sito, che è frusinitimpano.it. Poi siamo molto attivi su Facebook, dove c'è la pagina della compagnia Frusini Timpano, e su Instagram abbiamo i nostri profili, insomma, c'è Twitter, insomma, siamo molto presenti. Insomma. Bene. Gli sposi Romanian Ah, c'è un Tragedy. canale YouTube, scusa, c'è il canale YouTube della compagnia, dove ci sono, per esempio, quattro teaser girati e montati apposta da Lorenzo Letizia, sono delle puntate, insomma, sullo spettacolo Gli Sposi, per Bene. esempio, li abbiamo appena caricati. Gli sposi Romanian Tragedy di David Lescaut. A Roma, al Teatro India, dal 9 al 12 novembre. Un saluto e un ringraziamento agli autori e attori Elvira Frosini e Daniele Timpano. Un abbraccio, un in bocca al lupo, ci si vede a teatro. Vinci si vede a teatro, vivi. Ciao. Ciao.